pecco dal macello, t'han spogliato e massacrato, t'han sfinito col flagello. Ecco come servo che non piatto, disprezzato e reietto, il tuo volto han sfigurato. Che un uomo senza cuore riuscirebbe a sopportare o vedere questo orrore. Ecco l'innocente condannato, accusato ingiustamente, ricambiato con il mal. Ecce homo, est agnus Dei. Ecce homo, est filius Dei. Corpo mai stremato è caricato della croce, ti t'hanno abbandonato. Ecco, per tre volte sei caduto sotto il peso della croce, tra insulti, ingiurie e sputi. Ecco, t'han forato mani e piedi, t'hanno dato aceto e fieli, t'hanno appeso a soffocare. Ecco, il tuo cuore ha poi ceduto, ma dal fianco trapassato ha versato sangue e acqua. Ecce homo, est agnus Dei. Ecce homo, est filius Dei. Anche per te ha salvato anche me.